24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Rivoluzione francese, deciso no all'austerity. La sfida di Parigi all'Unione Europea, basta con l'Europa dell'austerità. Parigi sfida Bruxelles, più di così non possiamo risparmiare sotto il 3% nel 2017. La Francia sfida l'Europa, basta austerità, c'è la crisi, sforeremo il deficit. Dura Merkel, i paesi facciano i compiti. Immediata la risposta della cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha invitato tutti i paesi a fare i propri compiti a casa e a rispettare gli impegni, se non si vuole perdere credibilità. Giovanni Toti, europarlamentare, consigliere politico di Berlusconi, buongiorno. La guerra buongiorno in Europa, la guerra in Europa mi sembra cominciata. Beh, sembrerebbe proprio di sì, poi vedremo come va a finire, francamente. Allora, noi è tempo che facciamo una battaglia per dire che i trattati europei così come sono interpretati sono un freno alla ripresa e alla crescita. Ecco, però l'Europa, questo, Minoli, non è che uno strappo alla francese, diciamo, non aiuta, nel senso che oggi si è creata di nuovo un ulteriore motivo di rigidità con Germania. La rigidità da una parte, però dall'altra parte l'Europa del patto di stabilità sembra meno solida di prima. Sembra meno solida, ma io non credo che a strappi si vada molto lontano. Occorre sedersi intorno a un tavolo e trovare una soluzione che consenta agli stati di tornare a crescere, a chi ha bisogno di sforare il deficit del 3% di poterlo fare, in cambio delle riforme che servono al continente per tornare a crescere. Naturalmente. In questo modo invece si è fatto uno strappo unilaterale che secondo me non aiuterà neanche l'Italia, se mai avesse bisogno di questo. Perché però dopo l'Italia potrebbe seguire la Francia nel richiedere anche lei uno sforamento senza dover subire nessuna troica? Ma non lo so io se questo strappo francese potrebbe essere un solco in cui... No, lo chiedo a lei che sta a Bruxelles, nei palazzi di Bruxelles. È una domanda per cui ci vuole... Io non credo, se devo essere sincero, perché poi bisognerà vedere anche la reazione dei mercati. Teniamo presente che l'Italia ha uno stock di debito che la Francia non ha. Certo, quindi, naturalmente. Di fronte a un'azione unilaterale che dovrebbe in qualche modo prevedere poi una reazione dell'Europa, potrebbero rinnescarsi una serie di reazioni sul mercato che tornano a far alzare il nostro spread, e questo metterebbe ulteriormente nei guai il governo Renzi, che già è alle prese con una difficile... Ci arriviamo. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ma intanto, per l'Italia a Bruxelles, lei che vive in quei palazzi in questo periodo, si sente un po' odore di troica o no? No, odore di troica francamente io non la sento e non la voglio sentire, perché l'Italia non è la Grecia, ha un'economia molto superiore e sarebbe francamente una soluzione inaccettabile. Però io credo che Renzi si sia molto sbilanciato promettendo una serie di riforme che non stanno arrivando. C'è bisogno di cambiare passo da noi in Italia. Certo. Non è che dobbiamo fare i compiti per casa come qualcuno dalla Germania ci suggerisce, però c'è bisogno... Proprio lo ordina la Merkel, mi sembra abbastanza. Ora, la Merkel francamente non è votata da nessun cittadino italiano, e io sono molto convinto del fatto che l'Italia si debba autogovernare e debba scegliere per conto suo. Io credo che sarebbe opportuno fare le cose che servono alla nostra economia per avere una maggiore credibilità in Europa. Insomma, quello che sta accadendo in Italia ha un ritorno anche in Europa. Senta, tutto, ma Draghi... Con poche conseguenze, Minoli, alla fine non ci aiuta. Draghi è più forte nei confronti della Merkel, perché sappiamo che il rapporto fra Draghi e la Merkel in questo ultimo periodo non era facilissimo. Guarda, io non so se è più forte, io credo che Draghi abbia fatto delle cose coraggiose dal punto di vista della politica economica della BCE, anche confidando sul fatto che effettivamente il nostro paese cominciasse una via virtuosa delle riforme. Il fatto che queste riforme trattino finisce per mettere in difficoltà anche Draghi. Senta, ma intanto per venire in Italia, lo accennava lei, la riforma del lavoro si sta complicando, oppure sbaglio? La riforma del lavoro si sta molto complicando, perché come accade ormai da alcuni anni, il Partito Democratico, che al suo interno vive un congresso che sembra infinito, permanente, come la rivoluzione permanente di Trotsky, alla fine scarica le sue tensioni sull'attività parlamentare e sui provvedimenti di legge. Quindi alle ottime intenzioni di Renzi, a cui avevamo applaudito anche noi pochi giorni fa, si è subentrato un compromesso a ribasso. Noi abbiamo molti sms, scusi, sull'argomento di prima, molti sms che ci stanno arrivando dicendo che bisogna correre dietro la Francia subito. La gente che scrive, insomma. Beh, ma è comprensibile. Come insomma, sentire comune, diciamo. Ecco. Ma il sentire comune era noto da tempo, e noi lo diciamo da tempo, che l'interpretazione del patto di stabilità così com'è è un freno allo sviluppo. Patto di stabilità e crescita era, e la crescita ce la siamo completamente dimenticata, era scritta nel trattato di Maastricht. Però poi bisogna tenere a mente i rapporti di forza in Europa. Certo, naturalmente. La scelta del governo italiano di prendersi la Mogherini, cioè il ministro degli esteri, che è una di Castello. Lei è d'accordo o no? Lei è stato d'accordo o no? Assolutamente no, perché oggi ci ritroviamo circondati da un presidente dell'Eurogruppo, che è uno spagnolo sostanzialmente rigorista, perché in Spagna le riforme le fanno e le stanno facendo anche con una certa intensità. Abbiamo il famoso Katainen finlandese. Sì, vabbè, insomma, diciamo che la Germania, la Merkel, ha piazzato tutti i suoi uomini. E di fatto abbiamo lasciato, sì, ha piazzato tutti i suoi uomini anche grazie a una trattativa un poco singolare del nostro governo. Va bene, senta, l'onorevole Brunetta però, che è capogruppo, tornando all'Italia, sì, che è il capogruppo di Forza Italia, dice che Renzi non solo è tornato indietro, ma è di nuovo tutto come prima. Ha ragione? Beh, se passerà come leggo stamattina i giornali, francamente potevamo evitarci una settimana di dibattito e tutto. Cioè, siamo tornati alla Fornero, come dice Brunetta? Siamo tornati poco lontano dalla Fornero, non c'è dubbio che siamo. Quindi ha ragione Brunetta? Ha sostanzialmente ragione, certo. Senta, ma voi siete pronti a votare con Renzi se l'opposizione del PD porta a casa questo risultato? Ma a questo punto, se il provvedimento è quello che si delinea oggi dai giornali, francamente credo di no. Noi eravamo pronti a votare un passo avanti sul mercato del lavoro, eravamo pronti a sostenere con generosità una riforma che riteniamo serva al Paese. Sì. Ed era già una riforma piuttosto timida, voglio anche dire, rispetto a quella fatta per esempio dal Premier Rajoy in Spagna. Oggi, visto tutte le mediazioni che a casa PD si vanno concretizzando, io credo che il governo avrà l'autosufficienza parlamentare con i suoi voti, ma noi francamente non potremo votare. Ma intanto questa situazione sulla legge del lavoro spacca bene bene all'interno Forza Italia, non solo il PD. Per essere onesti bisogna dirlo, mi sembra che ci sia un bel conflitto. Non mi sembra che ci sia un'unità di intenti intorno alle posizioni di Berlusconi. Se la legge è quella che io leggo sui giornali oggi, tra i disciplinari e quant'altro, io credo che Forza Italia compattamente voterà contro. Voterà contro, e penso anche che sia un'inutile perdita di tempo. Quindi se si vota contro, si vota sulla linea più di Fitto che di Berlusconi, diciamo. Ma no, la linea di Berlusconi è sempre stata quella di fare opposizione ai provvedimenti che non ritenevamo giusti per il Paese, quindi ne abbiamo votato contro moltissimi e su come dire, indicazione del Presidente Berlusconi. Senta, però comunque per adesso che voi stiate votando insieme al PD è un fatto concreto in Parlamento. Senta questo servizio di Piazza Pulita dell'altro giorno su come votate sempre insieme. I due capigruppo di PD e Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta e Roberto Speranza, loro sono stati entrambi presenti in aula 667 volte e hanno espresso lo stesso voto 436 volte, cioè il 65,4%. I due capigruppo di Forza Italia di PD al Senato, Luigi Zanda e Paolo Romani, entrambi presenti in oltre 2000 votazioni, hanno 90,9% di votazioni comuni. L'onorevole Matteo Richetti e Francesco Paolo Sisso, entrambi in Commissione Affari Costituzionali, hanno una concordanza dell'86,4%. Maria Elena Boschi e Daniela Santanchè hanno una concordanza rispetto alle votazioni in cui sono state presenti entrambi dell'81,5%. Lorenzo Guerini, fedelissimo, anche lui di Renzi, e l'onorevole Anna Grazia Calabria, leader dei Giovani Azzurri, 87%. Insomma, più inciuccio di così, Toti, mi sembra difficile per adesso. Ma guardi, dipende di che le statistiche, bisogna vedere il periodo di tempo e che argomenti si trattava. Abbiamo passato primavera e estate a votare legge elettorale e riforma del Senato. Francamente sono due provvedimenti su cui votiamo insieme, quindi non mi stupisce. Quindi lei dice che il riferimento è quello solo? Ma io suppongo, voto del Senato francamente ha preso tutto luglio e tutto agosto, la legge elettorale alla Camera ha preso tutto maggio, è stata una impegnativa votazione, abbiamo votato insieme, quindi su questo non mi lascia sconvolta la cosa. Senta, oltretutto però... abbiamo sempre detto, anche senza nasconderlo, che i provvedimenti che avremmo ritenuto utili al Paese li avremmo votati, non stiamo imbrogliando nessuno. Senta, ma secondo lei, quindi secondo lei la legge elettorale va avanti, che va avanti indietro nel calendario alla Camera, poi alla fine va perché è un ingorgo che il Parlamento non so come farà a risolvere. No, ma è un ingorgo che però prima la calendarizzi, poi la togli, poi la rimetti, poi la ritogli, e insomma è un problema, no? Ma è quello il calendario, come dire, lo fa il governo e il suo ministro dei rapporti del Parlamento, noi ci adeguiamo, lo subiamo, se possiamo dirlo. Io so che quest'autunno in Parlamento l'ha complicato sfangarla, perché Renzi ha messo talmente tanta carne al fuoco che perché le aule gliela votino e gliela riconsegnino. C'è un singolare atteggiamento del governo che considera come fatte le riforme o i provvedimenti di legge annunciati. Ecco, senta. Dopodiché, come è noto, abbiamo ancora bicameralismo. Senta, qualche tempo. Naturalmente. Toti, senta, la vicenda dell'Europa in realtà sta rendendo bollenti le nostre linee telefoniche. Abbiamo Raffaele da Roma. Raffaele, buongiorno. Sì. Buongiorno Gianni Minoli, buongiorno a Toti. Niente, io sono un imprenditore che faccio impresa da quasi 40 anni. Io sono abituato nelle mie aziende, durante l'anno, durante il triennio, a fare i resoconti per vedere se le aziende vanno bene o vanno male. E vorrei fare un resoconto di questa nazione, di quest'Italia, da quando siamo entrati nell'euro, in Europa. Vabbè, però rapidamente, sì. Sì, 13 anni, 13 anni che questa Europa ha prodotto negatività a questa nazione, posti di lavoro, economia, crisi. Vabbè, secondo lei cosa bisogna fare? Bisogna uscire dall'euro? Non trovo benefici, no, bisogna solo ritornare a come eravamo, che stavamo bene come eravamo. Italia compatta, unita, l'Europa ci sta producendo solo negatività. Grazie, grazie. Senta, questo è un umore comune, molto diffuso. È un sentimento molto diffuso, sì. Non c'è dubbio. È un sentimento piuttosto diffuso di sfiducia nelle istituzioni che riguarda l'Europa, ma riguarda anche l'Italia, basta vedere qualsiasi sondaggio. D'altra parte, 6 anni, 7 anni di crisi non hanno lasciato. Sono durissime. Carlo da Treviglio ci scrive: perché la Francia non chiede una partnership all'Italia per fare fronte comune contro la Germania? Ci sono segnali che la Francia si muova per avere una posizione insieme all'Italia? Ma l'Italia questa posizione l'ha sostanzialmente sempre avuta, dopodiché la Francia può permettersi, per la struttura del debito e per i suoi conti, questo strappo unilaterale. L'Italia non potrebbe permetterselo. Noi, ripeto, non è che siamo sfavorevoli a sforare il 3%, l'abbiamo più volte suggerito anche al governo Renzi di sforare il 3% per dare un po' di fiato alla nostra economia. Il problema è come lo si sfora e come si accompagna lo sforamento con un'azione politica credibile. Se tu sfori il 3% e continui a ballare come l'orchestra del Titanic sul debito pubblico tra i più grandi del mondo, rischi il naufragio. Senta, ma invece... Toti, le elezioni in primavera, lei a quanto le dà? No, io non credo alle elezioni in primavera. Non ci crede proprio? No, come siamo all'opposizione, quindi incidiamo poco, il mio parere. No, io un'opinione la può avere anche all'opposizione. Se devo fare una previsione, io non credo. Renzi dice che vuol durare 1000 giorni. Vabbè, ok, io le ho fatto una domanda diversa. Se lei pensa che ci sono margini. Io le ho risposto, non credo. Senta, c'è Mario Secchi che le vuol fare una domanda. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Lancio una mia opinione e voglio un suo parere. Io non seguirei la Francia, perché la Francia è debolissima in questo momento e noi in realtà, se non la seguiamo, rafforziamo la nostra posizione in Europa, soprattutto agli occhi della Germania, che continua a dare le carte. Condivide o no? È giusto, la Francia è in una posizione debolissima e non otterrà nulla, la Germania ha completamente conquistato tutti i posti chiave dell'Europa, sono perfettamente d'accordo, infatti a mio avviso la Francia non avrebbe dovuto fare uno strappo unilaterale solo per sé, avrebbe dovuto mettere sul tavolo il suo peso politico, cercare delle alleanze con mediterranee, magari, appunto, cercare di negoziare con la Germania, come si dice, un cambiamento del patto di stabilità concordato, magari, come si dice da tempo, in cambio di quelle riforme strutturali che tutti gli stati devono fare, l'Italia ha promesso ma non sta facendo. Ma lei si aspetta che lo spread riparta? In questo momento io credo di no, perché sostanzialmente stiamo sotto il 3%, la nota di variazione del documento economico e finanziario dell'altro giorno, Renzi ha assicurato che non sfiorerà il 3%, quindi non vedo mutare le nostre condizioni. Certo che i sorrisini tra la Merkel e Sarkozy, come dice Mario da Venezia, si sono un po' allontanati, finito. C'è Pietrangelo Buttafuoco che vuol fare una domanda. Buongiorno, mi ha colpito la telefonata dell'ascoltatore Raffaele prima da Roma. Allora, la stragrande maggioranza dell'elettorato moderato di centrodestra, che dir si voglia, vive l'Europa come un problema. Adesso sarà un problema di comunicazione politica, però è un errore blu. Anche la sinistra, Pietrangelo. È un errore, sì, ma a maggior ragione la destra, quando leggiamo oggi sui giornali che per esempio Salvini è l'unico che sale nei sondaggi. Ecco, la domanda è questa, proprio al dirigente di Forza Italia. Perché Forza Italia non ascolta l'opinione del proprio elettorato e più che essere Forza Italia sembra essere sempre di più una Forza Europa? No, non siamo assolutamente Forza Europa. Io ho fatto tutta la campagna elettorale in prima persona, come sapete ero candidato e ho detto ripetute volte in tutti i miei comizi in campagna elettorale, in tutte le interviste, che questa Europa così com'è rischia l'implosione, perché tu, quando un'istituzione non raccoglie la fiducia dei cittadini su cui vuole governare, è destinata all'estinzione. Io non credo che uscire dall'euro o uscire dall'Europa nelle nostre condizioni economiche possa essere un vantaggio per i cittadini. Qua bisogna essere realisti. Allora, per questo io dico che la Francia ha sbagliato, avremmo dovuto mettere tutti insieme sul tavolo una posizione mediterranea, l'abbiamo capito. Ecco, c'è Secchi che su questo punto ha un... No, solo spiegare un po' meglio perché secondo me l'Italia deve ritrovare Machiavelli. Allora, tutte le poltrone della Commissione importanti sono in mano alla Germania. Tu non vai a trattare con il soggetto ferito e debole, tu vai a trattare con quello che ha l'arsenale ed è temibile, cioè con i tedeschi. E i tedeschi, che sono pragmatici, se noi andiamo là in maniera seria e trattiamo, stavolta ci ascoltano. Però perché si è indebolito per la prima volta in maniera seria dopo qualche decennio l'asse Parigi-Berlino. Esatto, e noi ci possiamo incuneare. Dobbiamo essere freddi. Quei sorrisini non ci sono più. Non ci sono più. Dobbiamo essere freddi, non dobbiamo cedere alle emozioni. Ti voglio fare una domanda anche a Totti, che viene da Paolo, da Milano. Finché l'Europa, dice lui, finché l'Europa dà i soldi alle banche, non all'economia reale, finiremo molto male noi umani. Ecco. Però non ci sono altri modi per far girare i soldi se non darli alle banche. No, alle banche no, vabbè, dice una cosa precisa. Se arrivano le banche si fermano lì e non capita niente. Certo. Bisogna obbligare in qualche maniera a trovare meccanismi per fargli distribuire il credito. Cose Toti le sa, sa benissimo. È verissimo che le banche, la Banca Centrale Europea, dove Draghi già ha fatto una politica coraggiosa in queste ultime settimane, dovrebbe essere una vera banca di emissione. D'altra parte, c'è una banca senza territorio, è difficile, senza io paese. Io temo che i sorrisini, però, questa volta la Germania l'abbia fatta alcune settimane fa, quando ha visto Italia e Francia sbagliare tutta la trattativa per la nuova commissione che durerà 5 anni. Man mano che lasciavano nello scacchiere posizioni chiave in mano ai tedeschi, la Merkel sorrideva sempre un po' di più. Oggi, quando si insedierà, voteremo la fiducia intorno al 21 di ottobre, la nuova commissione, ci troveremo sostanzialmente vedremo come va a finire questa vicenda, anzi, che è soltanto iniziata. Lei ha detto le elezioni non le vede in primavera, e prendiamo atto. Grazie onorevole Totti, grazie del suo intervento. Ecco, intanto la Germania, che l'abbiamo sentito, è più che mai al centro della scena europea, con la sua forza, le sue regole, la sua voglia di dare compiti a casa a tutti, l'ha detto la Merkel. Il grande costruttore di questa Germania però è stato quel gigante politico che risponde al nome di Helmut Kohl. Domani è l'anniversario della riunificazione della Germania. Queste sono le parole che Bill Clinton, allora presidente degli Stati Uniti, ha detto sul ruolo avuto da Kohl. Non sarebbe possibile scrivere la storia del XX secolo senza includere un capitolo su Helmut Kohl. Sotto molti aspetti, la storia della sua vita riflette quella della Germania e dell'Europa, segnando il passaggio dalle profonde divisioni e dai conflitti della Seconda Guerra Mondiale al periodo di grande unità e prosperità. Kohl non è stato soltanto un testimone di questo cambiamento epocale, ma con le sue incomparabili doti di intuito, coraggio e forza d'animo, ne è stato la guida. Questo era Clinton, ma quali sono stati gli ideali che hanno spinto Kohl a battersi per la riunificazione della Germania nella nuova Europa? Erano questi, è Kohl che parla. Oggi è una giornata di profonda commozione. Per me, e spero anche per voi, è un momento felice. Festeggiamo insieme la Germania. Un aspetto per me importante è questo. Nessun ragazzo tedesco, francese o italiano dovrà più partecipare a una guerra europea. Non mi interessano i motivi. O meglio, sì, mi interessano, ma non sono così importanti. Ciò che conta è il risultato che abbiamo ottenuto. Ed è un risultato che non può essere più cambiato. 800-24-00-24, il numero verde, 349-238-6666, gli sms, questi erano gli ideali di Kohl al momento della battaglia per la riunificazione della Germania. La parabola politica di Kohl, che lo ricordiamo, era ed è stato il padre della Merkel, però si è conclusa nel peggiore dei modi, con uno scandalo finanziario che lui stesso ha denunciato al Parlamento. Oggi, dopo 16 anni, l'era Kohl è giunta al termine. Tra il 1993 e il 1998 ho accettato donazioni per una cifra pari a circa 300.000 marchi l'anno non dichiarata per volere dei donatori. Comunque, certamente Kohl voleva una Germania europeizzata e non la germanizzazione dell'Europa. Ha perso Mario? No, perché intanto ha ricostruito la Germania e Angela Merkel è sua degna erede in questo, la rappresenta benissimo. E no, perché siamo di fronte a un processo, cioè il film non è ancora finito, anzi è in pieno svolgimento. Io penso che chiunque critichi la Germania, qua ne abbiamo dette di tutti i colori sui tedeschi, però debba anche riconoscere il loro genio assoluto, la capacità di costruire, di fabbricare, di espandersi. Carl Schmitt, che faceva il teorico di cose molto importanti, diceva sempre che la Germania ha fame di spazi e ci ha elaborato una teoria politica su questo che Pietrangelo conosce benissimo. Ieri erano gli eserciti, oggi è l'economia. Anche Vittorio l'ha scritto. La Germania è croce e delizia, va contenuta e aiutata e seguita. Quello che diceva cose. Credo che Pietrangelo sia d'accordo su questo. Sì, però credo che col nella germanizzazione dell'Europa in realtà ci credesse, e un risultato l'ha avuto anche forte di impatto, di immagine, perché quando prende mano nella mano Mitterrand e vanno insieme a recar visita a Ernest Jünger, vanno da lui in quanto soldato di ben due guerre, in quanto decorato con la croce di ferro, in quanto custode di uno spirito che è quello tedesco, e con un'idea ben precisa, che solo attraverso la Germania riunita può nascere un'Europa. E questo era il fondamento su cui si è anche costruito un sottotraccia presente nel momento in cui, sfornando una Mercedes, sfornando un classico della letteratura germanica e aprendo poi una trattativa serrata con il resto dell'Eurasia, la Germania ritorna a quello che è il suo destino profondo e segreto. Mix 24. Did I ever love you? Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you? Did I ever leave you? Was I Ti è venuto in mente durante la bomba d'acqua di ieri sera questa canzone? E perché lungo la strada che porta a Piazza di Spagna, all'angolo dell'hotel di d'Inghilterra, sì, ho visto, proprio quando cominciavano le prime piogge, un violinista giovane in camicia che ha accelerato il suo vibrato perché nel frattempo incrociava lo sguardo di un uomo che, armato di fisarmonica, rispondeva all'archetto soffiando sul mantice. E poi appunto cominciava la pioggia e c'era al parcheggio dei taxi una cosa tutta strana. Erano zuppi di musica e accoglievano soltanto nella clientela innamorati. Ah, che meraviglia! Ceri. Ceri. And is it still raining? Sono cose grosse. Confessioni, confessioni. Ma arriveremo domani con la posta del cuore e vedrete che cosa bolle nella nostra pentola, anzi quella di Mario Secchi. Sentite. Tutto si muoveva così in fretta. Non potevo muovermi, non potevo respirare. Dio mi aveva affidato un messaggio. Un messaggio da consegnare. Qual era questo messaggio? Detto che devo salvare la Francia dai suoi nemici e riportarla tra le braccia di Dio. Era Giovanna d'Arco, soprattutto era Milla Jovovic, che vabbè, io c'ho una passione per lei. Però non sono innamorato come Buttafuoco. Allora, la... vabbè, questo è un altro tema. Allora, non apriamolo. Non apriamo questo. Ci sono teleascoltatrici che tremano. Vai. Allora, dunque, la situazione è la seguente. Io voglio tornare. Scusa, ma il lapsus è meraviglioso. Teleascoltatrici. È la nostra radiovisione. Siamo messi malissimo. Vabbè, basta, finito. Vai. Stop. Allora. La Francia è interessante da seguire, ci voglio tornare, ci siamo agganciati a, certo, Jeanne d'Arc, perché insomma c'è tutto anche un lessico dietro che è interessante. Allora, loro dicono, sfoglieremo il 3% e basta con l'austerità. Bene, vogliamo ricordarci che i francesi hanno spremuto Italia, Grecia, Portogallo e Spagna in base ai parametri? E insomma, e poi vogliamo ricordare ai commentatori che oggi entusiasticamente parlano di rivoluzione francese, di disobbedienza, eccetera, che quando lo faceva l'Italia minimo era banditismo contabile per loro? Cioè, perché poi allora, interessante, cioè, sì, sì, no, due pesi e due misure. Se lo facevamo noi, nomine assunto, conseguenze reali. Appunto. E allora bisogna stare attenti. La Francia, ragazzi, è alla frutta, questa è la verità. Dal punto di vista economico stanno messi molto male, la loro bilancia di pagamenti, che è sempre stata la loro forza, si è indebolita tantissimo. In più il debito ha toccato per la prima volta i 2.000 miliardi di euro, i socialisti hanno perso il controllo del Senato, i sondaggi danno la destra in vantaggio. Secondo me Leger sont fait e Monsieur Hollande è cotto. È meglio che stia sulla Vespa, sempre. Ma io non seguirei mai, scusa, ma chi è che va alle corse e punta su un cavallo perdente? Solo un deficiente, chi è evidente, sbaglia, no, chi, certo, si sbaglia, e ci si può anche sbagliare, ma qua è evidente che Hollande non ce la fa. Io non andrei mai a fare l'asse con i francesi, sono deboli. Io proverei a farlo con i tedeschi, lo ribadisco, perché sai, quelli hanno i carri armati. Abenomics. Eccolo. Three arrows. L'Abenomics è costituita da tre frecce. La prima è quella di una politica monetaria audace. La seconda è costituita da una politica fiscale flessibile. La terza freccia continuerà a incentivare gli investimenti privati. Allora, questo è Shinzo Abe, primo ministro del Giappone. Tuo grande amico. Sì. Allora, qua ha dei problemi però, No, ha dei problemi. Allora, la situazione è molto interessante perché tutte le cose sono legate. La contemporaneità è un grandissimo e bellissimo puzzle. Basta un po' saperlo leggere. Allora, ci sono dei giochi monetari in corso. Avete visto che Draghi ha portato l'euro a 1,26. Ovviamente l'ha fatto con l'accordo di chi, secondo voi? Della Germania. Della Germania. E ovviamente è una mossa per fare che cosa? Per contenere la forza del dollaro, in questo caso, e aiutare le esportazioni dell'Europa. Dall'altra parte che cosa succede però? Che il dollaro è molto forte nei confronti dello yen e quindi del nostro amico Shinzo Abe. Allora che cosa succede? Quando tu importi dei beni che passano dagli americani, dunque, che passano dagli Stati Uniti al Giappone, ti ritrovi che costano molto di più. E questo potrebbe avere un impatto, secondo alcuni economisti, serio sui consumi del Giappone e quindi mettere a rischio la crescita giapponese. Questo è il quadro. C'è un quadro politico, c'è un quadro di battaglia delle monete che noi dobbiamo seguire, e a maggior ragione dobbiamo seguirlo oggi che c'è il vertice della BCE. E che c'è Draghi che parla nel pomeriggio. Ecco, io devo chiedere scusa prima di passare ai nostri salamini. Stefano da Padova segnala una cosa giusta, dice: Minoli, la prego, bomba d'acqua non si può più sentire, è così bella la parola temporale, almeno lei contribuisca a salvare temporale. La lingua. Ha ragione, Salamino. Sì. Salamini di parole, la parola è in crisi nei talk, figuriamoci nelle scuole. Allora, Giannini e Franceschini, che sono rispettivamente ministro della pubblica istruzione e dei beni culturali, vogliono riportare al centro della scuola la parola. A proposito di temporali, c'era quella bellissima poesia, quel sonetto di Nino Martoglio che è il telegrafo senza fili, dove diceva, e già raccontandovelo sto già anticipando la notizia, dove diceva: piove mettiamo e l'acqua si subissa, com'è che la parola arriva asciutta come l'osso? Ecco, questo si domandava Martoglio, ma io anticipo la notizia perché l'idea fulminante qual è? Che dal 28 al 31 ottobre giornalisti, scrittori, artisti, musicisti, fuochisti, uomini di fatica andranno nelle scuole a leggere ad alta voce i libri, a far sì che i giovani si interessino dei libri. Buffon ultimamente ha dichiarato di non conoscere Flaubert, magari leggerà Balzac, magari nella versione di Carmelo Lopapa. C'è pure un hashtag, si dice così? Ma sì, lo sai come si dice? Non lo so. Ma se sei un grande frequentatore malato di tutta questa roba qua, tu ma che vale? Niente, mamma nulla mia, che vabbè. Allora, l'hashtag diciamo alle teleascoltatrici. Un amore di libro. Vabbè. Allora, però che la sai cos'è la cosa divertente, Giovanni? Sì. Che tu sei così mefistofelico, così demiurgo, che insomma tutte le cose che fabbrichi poi spuntano altrove. Allora, cos'è tutto successo? Ma sì, perché sarà tutto un insieme di incipit, tutto un insieme di titoli, tutto un insieme di libri, insomma l'idea di far leggere i ciucci. Come vendere frigoriferi agli eschimesi. Allora, le tecniche sono queste, ascoltate la prima. Che è tipo un comunicato Brigate Rosse, ascolta. Ma sembra una roba marziana. Cosa c'è da salvare? Nella poesia lui dice te. E come quando uno scrittore affronta il proprio testo. Effetto. Brigate Rosse comunicato. Invece, ascoltate i danni che fece poi Benigni. Preservati dalla divinità in persona. Ascoltatelo. Non ti sento, Svanì. Svanì, Benigni. Benigni! Benigni! Parlami. La Nemesi, finalmente Carmelo Bene nella Nemesi. Fantastico. Mario, c'è ancora una bolla. Prima sì, vai con le Sturmtruppe, va. Dentro in der Kacke marciamo po. Ah no, perché le Sturmtruppe? È tutta tedesca oggi la faccenda, anche la puntata. No, in realtà io vi volevo parlare del New York Times che licenzia, taglia 100 posti di lavoro, giornalisti e un altro po' di lavoratori. È una brutta notizia, però insomma è un presente che non ha altra soluzione, poi anche per il nostro lavoro, soprattutto per il nostro lavoro, che è la digitalizzazione. La domanda di informazione nel mondo, io vi ricordo, non è mai stata così alta e mai però così basso anche il margine di profitto. Quindi qua bisogna che gli editori rimparino a fare il loro mestiere e cambino il modello di business. Io dico aspetta e spera. Però la battaglia tra Google e gli editori europei invece è molto interessante. Beh, quella sta proprio crescendo. Sta crescendo, secondo me la perdono, perché se si fermano alla questione del solo contenuto, chi la perde? Tutti gli editori. La perderanno perché non hanno capito che devono focalizzarsi anche su altro. altro, cioè su come veicolare le informazioni, su come costruire piattaforme tecnologiche legate ai loro prodotti. Cioè dici che è una battaglia di retroguardia? È una battaglia di retroguardia. Però le tasse no. Le tasse non l'abbiamo fatta pure noi. Qua volte, però c'è un problema, che gli editori non hanno ancora focalizzato il loro modello di business, questo secondo me. E quindi Axel Springer è come adesso... è stato al tempo della televisione. Sì, l'hai vissuta questa storia, no? Così è andata. C'è una bellissima frase di Daryl Zanuck, che era il patron della 20th Century Fox, che diceva: la televisione finirà dopo sei mesi perché tutti si stuferanno di guardare una scatola di legno. Beh, è finita come è finita. È finito, no? Il cinema. Quindi è così, solo per dire che Axel Springer esce dai contenuti da Google, ma è come se una macchina non prendesse più l'autostrada. Sì. Cioè, però non è funziona. Una strada. Canzoniere. No, il tuo amore non è così vasto. È il mio amore a tenere svegli i miei occhi, tenuto sveglio dal mio amore casto, a far sì che il tuo guardiano mi blocchi. Per te io voglio, mentre tu vuoi ovunque. Via da me, ma accanto ad altri comunque. Mix 24. Oggi la quota rosa è un po' particolare, Sara. Sì. Vi ricordate Lucia Annibali, l'avvocato che è stata ustionata con l'acido la notte del 16 aprile da due uomini mandati dal suo ex fidanzato, che per fortuna adesso è in prigione? Lucia è una grande donna che ha condiviso questa esperienza piena di sofferenza e coraggio con un libro che si intitola Io ci sono. Qualche giorno fa è stata avvistata alle sfilate della moda milanese e le ho chiesto il motivo. Com'è cambiata la tua vita? Da quella sera in cui sono stata aggredita, che quasi vivo in ospedale, perché comunque per recuperare al massimo il viso, anche la mano, le funzioni. Una settimana fa mi sono operata di nuovo, oggi sto tornando da Parma, quindi è cambiata profondamente sicuramente, perché ci sono altre priorità in questo momento. Tu hai affrontato appunto tutta questa vicenda con grandissimo coraggio, soprattutto perché hai denunciato senza dare l'impressione di avere paura la violenza che hai subito e sei diventata anche un simbolo per tutte le donne, per tutte noi. Ma perché sei andata alle sfilate della moda milanese? Ero già stata invitata l'anno scorso da una carissima amica, però per il mio compleanno dell'anno scorso, però era ancora troppo presto perché il viso era ancora molto segnato e non me la sono sentita. Quest'anno è stato un modo per dire: vedi, finalmente insomma, ce la posso fare ad andare, è una conquista in più sempre, no, per me. Ogni cosa nuova che riesco a fare rispetto a prima, ai mesi precedenti, è per me sempre un passo avanti verso anche la guarigione. Ma è stato anche appunto un modo per, diciamo, affermare fino in fondo la tua normalità di donna? È stata una bella occasione, perché penso che sia importante in una situazione del genere regalarsi anche un po' di leggerezza, di vita normale, tra virgolette, perché non è proprio normale magari andare a una sfilata in una, anche, insomma, una casa molto importante. E, difendi, giusto? Sì, difendi, sì. Esatto. Quindi alla fine è un modo comunque per sì, mantenermi viva, per vivere appieno la mia vita, la mia nuova vita. Insomma. Nel tuo libro hai scritto che ti senti più bella, bella della tua dignità e del tuo orgoglio. E io mi sono chiesta, ma l'hai sentita tutta quella dignità e quell'orgoglio nella Mecca della bellezza? Io sento l'orgoglio di me stessa nell'essere lì, e come sempre è un modo per dire a me stessa, soprattutto perché io prima di tutto mi rivolgo a me stessa, che non mi vergogno del mio viso, anzi sono fiera, e anche il mio viso mi permette comunque di fare anche queste cose, quindi ancora una volta non è un limite ma diventa un'opportunità. Senti Lucia, ma chi è il tuo stilista preferito? Naturalmente Fendi, naturalmente. Perché? Perché ho una cara amica, ho avuto modo di conoscere una cara amica, insomma, in quell'ambiente, è veramente una persona molto speciale, quindi è proprio un legame affettivo che ho. Lucia, cos'è per te la femminilità? La femminilità penso che sia essere sicuri di se stessi, a proprio agio con se stessi, con il proprio corpo, ma anche proprio con il proprio modo di essere, con la propria personalità. Quindi essere pienamente se stessi, credo che questo renda una donna anche più interessante, più femminile. libera insomma da magari complessi, da retropensieri, essere anche molto spontanei, secondo me rientra nel concetto di femminilità. E invece cosa vedi nel tuo futuro? Nel mio futuro per ora vedo ancora altri interventi chirurgici, e quindi quelli sicuramente, le cure vedo, e diciamo che lo coltivo insomma un passo alla volta il mio futuro, per essere sicura di costruirmelo bene, mia immagine e somiglianza. Ma dove vorresti arrivare? Questo devo ancora saperlo. Hai un sogno nel cassetto? Ma oddio, no, sogni particolari no. Cioè, l'importante è che io sia serena, che stia bene, come dico sempre con me stessa, questa è la cosa più importante, fare quello che piace a me e che mi corrisponde. Quindi piano piano penso che mi costruirò anche in questo senso. Una storia di grande coraggio. Salamino! Torna o non torna? Torna o non torna, Lessi? Allora, non sono finite le discussioni sull'articolo 18 all'interno del PD. 18. Non sono finite le discussioni sull'articolo 18 all'interno del PD, che continua all'interno della maggioranza una discussione ferocissima tra Renzi e il nuovo centrodestra, che sarebbe il partito di Angelino Alfano, dove è sempre più forte la preoccupazione di un colpo di scena, cioè il ritorno di un gruppo di senatori alfaniani alla casa madre. Tutti tornano da Berlusconi, quindi, come si suol dire, torna a casa Lessi. E sono festosi, sono felici perché ritornano a casa finalmente da Silvio Berlusconi, e già 10 sarebbero sufficienti a spostare l'equilibrio e far ritornare il cavaliere determinante, decisivo, più bello e più forte che Pria. Più bello e più forte che Pria. Insomma, torna a casa Alessi, però tutti voi ingrati, compreso voi due, Giovanni, Mario, ingrati siamo tutti lì ad aspettare Alessi, e avete dimenticato il 18. No. È qui al telefono. Avete dimenticato Dudu. No. Per non dire di Ayace Telamone. Ecco, io la parolaccia non la posso dire, però sta dicendo che lui è arrabbiato, nero, da nord a sud è tutto un boom di accordi e di intese tra Partito Democratico e Forza Italia. È lui fuori. Povero Ayace. Però beve del buon vino. Beve del buon vino. Oggi sulla stampa vi segnalo un interessante articolo dove viene fatto il confronto tra il vino di Massimo D'Alema e quello di Bruno Vespa. Bene. Cos'è grosso? Chi vince? Chi vince? Nel vino? È la stampa. Vabbè, la stampa va bene agli equilibri. Fabio da Milano che ha la risposta sul canzoniere. Fabio? Pronto? Fabio? Ecco. Eccomi. Allora, dovrebbe essere reminiscenze del liceo, Shakespeare innanzitutto, William Shakespeare, sonetto 61, ma... Giusto! Okay. Bravo! Giusto! Bravo. Cosa giusto. Fai Fabio? Feltrinelli! Che cosa fai Fabio? Mi occupo, faccio il lavoro più bello del mondo, mi occupo di comunicazione televisiva, tra l'altro mi occupo di la F, la TV di Feltrinelli, quindi siamo la concorrenza, va bene, d'accordo, grazie. Era Lucia Annibali, naturalmente la ragazza che è stata intervistata da Sara Tardelli. E per finire vi ricordo che domani è l'anniversario della riunificazione della Germania, e come abbiamo già annunciato Marina Milone racconterà la storia di Helmut Kohl, il grande protagonista della riunificazione. Famosa battuta di Andreotti: amo tanto la Germania che preferisco vorrei vederne due. Però Andreotti non c'è più alla Germania, si è riunificato. E intanto piove, lo diceva Jovanotti. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove? senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati sei tutta bagnata.